Efesini, grazie Cristian. Efesini 5, versetto 18 dice questo, ed è il verso di questa sera. Efesini 5, versetto 18 dice: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza. Possiamo ripeterlo insieme? Versetto 18, vi piace? Fa bene ricordarcelo, ed è sano anche ricordarcelo, stiamo ricordando il comandamento di Dio. Quindi ripetiamo insieme, versetto 18 del capitolo 5 di Efesini dice: non... Vi siete fermati a non ubriacatevi. Il verso va avanti, vogliamo leggerlo tutto e citarlo tutto. Non ubriacatevi. Amen. Guardate come continua. Ma siate ripieni, ricolmi di spirito. Ma siate ricolmi di spirito, dice la parola di Dio. Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali. Cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. La parola di Dio è così chiara, la parola di Dio è così esplicita, la parola di Dio non ha vergogna, la parola di Dio non è timida. La parola di Dio non si pone il problema che cosa penserà la maggioranza di quello che sto per dire. Dio, la sua parola è chiara, è diretta ed è così esplicita perché Dio così tanto ci ama. E lui esplicitamente dice a te: non ubriacarti di vino. E questa è solo una delle tante indicazioni che noi troviamo in questo capitolo e in modo particolare nel capitolo precedente. E la lettera agli Efesini è una lettera meravigliosa, è una lettera che comincia presentando Cristo, la sua gloriosa vittoria sulla croce, presenta la salvezza per grazia, presenta la Chiesa e poi nella lettera agli Efesini, che è così chiara, cominciamo a leggere delle istruzioni, dei comandamenti, delle dichiarazioni molto chiare, molto dirette, rivolte a tutti coloro che dicono di essere cristiani. E se tu ti dici di te stesso stasera: io sono cristiano, devi poter accettare anche ogni comandamento che viene da parte di Dio rivolto a te quale suo figlio. E i comandamenti che noi troviamo, le istruzioni, le indicazioni che troviamo in questo paragrafo, in questo capitolo, a tratti sono eccessivamente scomode. Già solo citarle, stamattina citandole è cambiata l'atmosfera in sala. Silenzio, occhi sgranati, un po' come i vostri in questo momento, il cuore che forse di qualcuno batteva, a dire: sta parlando di me, oh caspita, ho fatto un'altra cosa sbagliata. La parola di Dio nei versi precedenti comincia, apre questa parentesi di istruzioni dicendo questo: questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essere cristiani ha a che fare con un comportamento e la parola di Dio dice: non comportatevi più come vi comportavate un tempo, non comportatevi più come la maggioranza delle persone attorno a voi, i pagani, si comportano. Voi siete chiamati a un modello di vita e a un comportamento di vita diverso. E parla esplicitamente, andatelo a leggere a casa, Efesini 4, Efesini 5, parla di come dobbiamo parlare, che non devono uscire più parole cattive dalla nostra bocca, che non dovrebbero uscire parole volgari o oscene dalla nostra bocca, che dobbiamo perdonare sempre, chiunque, che dobbiamo amare, che non dobbiamo mentire, che non dobbiamo vivere nell'amarezza, che non dobbiamo vivere nell'ira, che non dobbiamo vivere nella vendetta, che non dobbiamo offendere, che non dobbiamo vivere in purità sessuale, che non dobbiamo fare nessun atto impuro che è fuori dalla volontà di Dio, e nello specifico non vivere la fornicazione e l'adulterio, ovvero il vivere una relazione e rapporti sessuali prima del matrimonio e vivere rapporti sessuali con altre donne o in altre maniere come atteggiamento impuro, disonorando il letto matrimoniale, l'unione fra l'uomo e la donna, tua moglie, tuo marito. La Bibbia è molto specifica e parla di come noi dobbiamo addirittura scegliere e stare molto attenti a scegliere chi frequentare, con chi stare. E la Bibbia dice: non state, non siate compagni di coloro che disonorano la parola di Dio. E le istruzioni vanno avanti prima di questo verso che abbiamo letto insieme e dopo questo verso. Dopo questo verso parla del fatto che la donna deve essere sottomessa al marito, che il marito deve amare la moglie, parla del comportamento dei figli nei confronti dei genitori, dei servi nei confronti dei padroni, e ci mostra un livello di comportamento di vita che ci rende tutti molto, molto scomodi. Ma questa è la verità dell'Evangelo. La verità dell'Evangelo è che Gesù ti dà la possibilità di entrare in un comportamento, in uno stile di vita diverso da quello che vivevi prima. C'è nei Vangeli questa storia meravigliosa, ed è la storia di Zaccheo, la ricordate? Zaccheo è un giudeo, lui sin dall'infanzia deve aver sentito i comandamenti di Dio, li avrà saputi, avrà conosciuto sin dalla sua infanzia che cosa prevedeva la legge mosaica, eppure è diventato un imbroglione, un impostore, un ladro, un pubblicano, anzi un capo di pubblicani, e ha vissuto talmente imbroglio, talmente tanto tradimento nei confronti dei suoi fratelli, ha estorto, ha manipolato, non si è comportato in una maniera corretta, tanto da arricchirsi e diventare un uomo estremamente ricco. Fatemi aprire una parentesi: la ricchezza e l'amore per le ricchezze, come dice la parola di Dio, è la radice di ogni sorta di male. E se insegui le ricchezze nella tua vita, probabilmente ti ritroverai a vivere dei compromessi. Probabilmente desidererai più non pagare le tasse, più di arricchirti. Probabilmente desidererai più non seguire quello che la Bibbia istruisce te a fare come cristiano, pur di non rinunciare a quel centinaio, a quei due, tre centinaia, cinque, quel migliaio di euro in più che puoi ottenere facendo quella piccola cosa che però è una violazione della legge. Zaccheo sapeva questo, eppure la sua vita non è cambiata finché ha avuto Gesù in casa sua. Letteralmente Gesù l'ha visto e ha detto: io verrò e cenerò a casa tua. Entra in casa sua e tutto cambia. Gesù, non leggiamo nei Vangeli che dà istruzioni a Zaccheo e comincia a dire: senti, ti stai comportando in una maniera sbagliata, dovresti ridare i tuoi soldi a coloro che stai frodando, dovresti usare meglio le tue ricchezze, stai vivendo nel compromesso. No, non leggiamo niente di tutto questo. Leggiamo semplicemente che l'incontro di Zaccheo con Cristo Gesù, con la santità fattasi carne che ha vissuto in terra, l'incontro, il semplice approccio, il semplice cenare, stare insieme, porta Zaccheo a prendere una decisione radicale. Comincia a dire: se io ho rubato a qualcuno, ne darò quattro volte tanto. Ho rubato 100 euro, ne ridarò 400. Ho mancato di onorare con i miei soldi i poveri, ora sapete cosa faccio? Sai Gesù cosa faccio? La metà dei miei averi io li devolvo tutti ai poveri. e mette Dio al centro della sua vita, si ravvede e Cristo ha la possibilità di dire: la salvezza è entrata in questa casa, Zaccheo è un figlio mio, e lo onora, lo eleva da essere l'ultimo dei peccatori al primo dei santi. Perché? Perché ha incontrato Gesù. Ed è questo che fa la differenza. Nel momento in cui tu incontri Gesù, questo cambia la tua vita, questo cambia radicalmente le tue scelte, questo cambia il tuo comportamento, tu vuoi agire in una maniera diversa. Se noi andiamo nel mondo, se voi stasera vi venisse la felice idea di scrivere su Facebook: non ubriacatevi, punto. Potete immaginare i tipi di commenti che avresti dai vostri amici, da chi se la spassa, da chi non fa altro che vivere una vita in dissolutezza. Se noi andiamo lì fuori, a persone che non conoscono Dio, e cominciamo a dire il sesso prima del matrimonio è una violazione dei comandamenti di Dio e porta morte nel tuo cuore e distruzione nella tua vita, capite quale potrebbe essere la reazione che otterremmo? Forse la capisci molto bene perché l'hai già detto e già hai avuto le tue risposte ad affermazioni come queste. E come noi, e come un individuo approccia i comandamenti di Dio, dice tanto sulla sua vita, sul suo essere o non essere cristiano. Viviamo in una nazione dove tutti si dicono cristiani, la maggior parte. Eppure essere cristiani che cosa significa veramente? Se non seguire le istruzioni del nostro Maestro, del nostro Signore Gesù. Questo è ciò che fa di noi dei cristiani. Il mondo, quando si ritrova, se si ritrova a leggere istruzioni come quelle che ho elencate, se cominciasse a leggere Efesini 4 ed Efesini 5, avrebbe due reazioni. La prima è: la vita del cristiano è una vita di privazioni, e incomincerebbe a dire: voi cristiani vivete degli obblighi e delle imposizioni da osservare che vi privano della vera gioia di vita. È una vita di regole, è una vita che non ha senso, è una vita bigotta, è una vita morta. Questa sarebbe la prima reazione di chi non ha Cristo. E poi la seconda reazione riguardante Dio sarebbe: Dio è un tiranno, un dominatore che costringe i suoi seguaci a privarsi della gioia della vita, un arrogante egoista che vuole costringerci ad una vita sofferente senza le vere gioie che questa terra ha da darci. Questa è l'idea che viene in una persona che non ha Cristo Gesù. E la conseguenza è quella che o rinnega del tutto Dio, Gesù e la verità della parola, oppure comincia a costruirsi un Dio a sua misura. Un Dio del quale gli piacciono certe cose, ma non gli piacciono altre. Un Dio dove gli piace il fatto che lui è un padre buono, al quale noi possiamo pregare: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Un padre che è pieno di grazia, che accoglie i suoi figli, che ha un piano per loro. Queste parole le riescono a percepire, a far loro, ma odiano quella parte di Dio che ha a che fare con i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue istruzioni e le sue indicazioni. Ed è un rischio, fratelli e sorelle, che possiamo vivere anche noi. Farci un Dio a misura nostra e togliere ciò che non ci piace di Dio, togliere ciò che non ci piace della parola, saltare passaggi come quelli che stiamo leggendo questa sera. Però nel momento in cui tu incontri Gesù, e credo che posso parlare per la stragrande maggioranza di noi questa sera, nel momento in cui tu incontri il Salvatore, colui che è santo, hai una rivelazione della vita vera, della vita piena che lui ha da offrirti. E quando arrivi a passi della Bibbia come questo, come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né cose sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi in ringraziamento, eccetera, eccetera. La tua reazione da cristiano, perché hai incontrato Gesù, è: lo voglio, questa è la vita che desidero. Grazie Dio che tu mi stai mostrando a quale vita elevata tu mi vuoi chiamare. Qui c'è la vera vita. Qui c'è la vera libertà. Io posso distinguermi da una società che vive nella morte e nel peccato. Posso essere libero da ogni vizio, posso essere libero da ogni schiavitù, e io voglio questo nella mia vita. Questa è la reazione di chi ha Cristo, questa è la reazione che io ho quando leggo questi versi. Dico: Signore, questo è quello che desidero, con tutto il mio cuore, questo è il comportamento di cui io mi voglio vestire, io mi voglio spogliare del comportamento vecchio, io non voglio essere il vecchio Mirko, io voglio essere quel nuovo Mirko che tu hai chiamato a distinguersi, ad essere santo, ad essere pieno di luce, una luce folgorante che diventa una benedizione anche per gli altri. Questo è quando sperimenti Cristo Gesù. E la domanda successiva che ti viene in mente è: ma come? Come posso vivere questa vita? Come posso vivere in santità? Come posso essere appartato? Come posso essere libero dalla schiavitù del peccato? Come posso essere libero e forte contro le tentazioni che questo mondo ha da offrirmi continuamente, che mi bombarda e che mi priva della vera gioia di vita? Come? E io credo che nel verso che noi abbiamo letto, nell'apertura di questo messaggio, c'è una chiara chiave. Non è l'unica. La Bibbia è piena di chiavi che ti danno la possibilità di essere libero dal peccato, santificato, appartato in Cristo, e ti dà la possibilità di vivere quella pienezza di vita alla quale sei destinato. Però c'è una chiave importante al centro di tutte queste istruzioni che è dissonante. Mentre tutti i versi che vengono prima sono istruzioni, indicazioni, comandamenti e quant'altro che riguardano il comportamento, e poi dopo mariti, mogli, padri, figli, padroni e servi, al centro, nel cuore di queste istruzioni leggiamo: siate ricolmi di spirito. Siate ricolmi di spirito, un comandamento un po' diverso. Un'indicazione, un'istruzione un po' diversa dalle altre, che ci parla di qualcosa di diverso che Dio vuole dire a ciascuno di noi. E io spero, è la mia preghiera, che questa sera tu possa cogliere la rivelazione che c'è in queste semplici parole: siate ricolmi di Spirito Santo. Negli scorsi messaggi abbiamo visto cose importanti che riguardano la terza persona di Dio, ovvero lo Spirito Santo. Per chi non ha potuto ascoltare questi messaggi, ti invito a farlo. Puoi andare su YouTube, puoi mettere Pieno Vangelo nella ringa di ricerca, troverai i vari messaggi, e io ti invito ad ascoltare i messaggi che hanno a che fare con lo Spirito Santo, perché credo che Dio sta chiamando la nostra Chiesa a vivere una stagione nuova, dove riscopriamo il valore e l'importanza dello Spirito Santo nelle nostre vite. La scorsa volta abbiamo visto quanto il battesimo nello Spirito Santo fosse importante per l'Apostolo Paolo. Ve lo ricordate? Abbiamo poi visto quanto questo fosse importante per i discepoli. E poi a ritroso siamo andati alla storia di Giovanni il Battista. E anche per lui il fatto che Gesù venisse era un evento importante, perché questo Gesù era un altro battista di un battesimo diverso, il battesimo nel fuoco, il battesimo nello Spirito Santo. E poi naturalmente anche per Gesù il battesimo nello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo, è importantissima. E la scorsa volta abbiamo visto come è chiave quel verso in Atti 1:8 che dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi, e allora mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quello che abbiamo compreso da questo verso è che il battesimo nello Spirito Santo era estremamente importante per Gesù, non per quello che era un evento singolo da vivere nell'occasione nella quale la Pentecoste sarebbe accaduta o nel momento in cui tu ricevi lo Spirito Santo per imposizioni delle mani. È bellissimo, è meraviglioso, è un evento importante, è un'occasione straordinaria, ma Gesù sta dicendo qualcosa di diverso. Gesù sta dicendo: il battesimo e la pienezza dello Spirito Santo è importante per la tua vita, anzi indispensabile per la tua vita, per permetterti di camminare nella potenza dello Spirito Santo in ogni territorio al quale io ti sto chiamando. La potenza dello Spirito Santo che ti riempie e trabocca attraverso di te per benedire anche altri, è la potenza che tu hai bisogno per vivere quella vita straordinaria alla quale io ti ho chiamato, per essermi testimone in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Gesù sta dicendo: tu hai bisogno dello Spirito Santo per poter vivere quella pienezza di vita alla quale io ti sto chiamando. E sapete qual è la verità meravigliosa? È che tu sei destinato a vivere una vita santa. Tu sei destinato a vivere una vita santa. Puoi ripeterlo con me: io sono destinato a vivere una vita santa. Al mio tre, uno, due, tre, io. E io non so se cogli quanto importante e meraviglioso è questa rivelazione. Tu puoi vivere una vita santa, tu puoi vivere una vita appartata, tu puoi vivere una vita libera, tu puoi vivere al di sopra delle tentazioni, tu puoi vivere più forte di ogni bastone che il maligno vuole mettere in mezzo alle tue ruote e farti cadere. Tu puoi perdonare, tu puoi amare, tu puoi essere libero dalla pornografia, tu puoi essere libero dai vizi, tu puoi vivere una vita che ha uno standard così elevato che ti permette di vedere tutti gli altri da una posizione alta, per benedire gli altri e per portare altri a libertà e non a soffrire, ad essere angosciato, ad essere oppresso, ad essere in quella cupola che si chiama peccato e che porta morte nella tua vita. Tu sei chiamato e tu sei destinato a vivere una vita santa, e la vita santa è la cosa migliore che tu puoi ottenere su questa terra, e questa vita santa ti è possibile viverla mediante la potenza e la pienezza dello Spirito Santo. Sapete cosa dobbiamo chiederci questa sera? La domanda che dobbiamo farci alla luce di questi versi: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di Spirito Santo. La domanda che dovremmo farci è: di che cosa siamo pieni? Perché il contrasto fra l'alcol, la dissolutezza, che ha da offrirti una sostanza, e all'alcol puoi sostituire così tante altre cose, è un antidoto a quello che è il dolore che tu stai vivendo. Quando uno si ubriaca lo fa perché ha da dimenticare qualcosa. Quando uno si ubriaca, il più delle volte ha bisogno di trovare una gioia che altrimenti non riesce a trovare. Quando uno si ubriaca lo fa perché vuole distogliersi da quelli che sono i problemi della vita, le circostanze del quotidiano. Quando uno si ubriaca cerca di evadere dalla vita che è troppo pesante, troppo opprimente. In realtà noi tutti, dalla prima fila all'ultima, cerchiamo delle ubriachezze per distoglierci, per superare il dolore, per trovare un antidoto. E questo può essere in tutte le sorte di cose che la società ha da offrirci: distrazioni, intrattenimento, cose di vario genere che magari di per sé non sono un peccato, ma non ti portano a vivere quella vita piena che invece Dio ha per te. Sono degli antidoti, delle distrazioni che ti portano a vivere una vita nella dissolutezza. Il risultato è lo stesso dell'ubriachezza: tu vivi in una maniera non regolare, non ordinata come Dio vorrebbe che tu vivessi. E quindi la domanda per noi questa sera deve essere: di cosa siamo pieni? Di cosa sei pieno in questo momento? Cos'è che sta riempendo la tua vita? Puoi dire: io sono pieno di Spirito Santo. C'è tutto dentro di me, abbonda della pienezza di Dio. Io posso insegnare così poco su questi versi, perché li sto scoprendo anch'io e sto imparando a comprendere il valore e l'importanza che devo dare allo Spirito Santo nella mia vita. E sinceramente non posso dire, sono sempre continuamente pieno di Spirito Santo. Sinceramente non lo posso dire. Però quello che posso dire è, io ho una speranza in questa rivelazione che la parola mi dà. Che io posso vivere una vita diversa e posso spogliarmi del vecchio uomo e rivestirmi del nuovo, perché c'è una chiave che oggi scopro, che è la pienezza dello Spirito Santo in me. E voglio questo con tutto me stesso. Sapete quello che significa questo? È che Dio non viene e dice, Mario, senti, queste sono le leggi e gli ordini che ho per te. Queste sono tutte le mie istruzioni, seguile, falle, e quello che Dio fa a volte ci sembra che sia questo, no? Bastonarci e dire, Mario devi fare questo, Mario ancora non fai questo, Mario perfeziona questo, Mario cambia in questo, e poi ci sembra che Dio ci lascia le istruzioni, si gira e se ne va, e dice ora veditela tu. Invece quello che questo verso ci sta dando rivelazione è uno scenario molto diverso. È Dio che sta dicendo, Mario, io voglio che tu cambi, io voglio che tu ti perfezioni, io voglio che tu sia libero da quel vizio, io voglio cambiare la tua vita, queste sono le indicazioni, questi sono i miei comandamenti, fai tutto questo, fai questo, questo, questo, questo, questo e quest'altro. Sai come, Mario? Invita me nel tuo cuore, invita me dentro di te, affinché io abbondantemente dentro di te possa permettere a te quello che io stesso ti sto chiamando a vivere e a fare nella tua vita. Dio sta chiedendo a ciascuno di noi di farlo entrare nel proprio cuore per permettere a Lui stesso di farci vivere quella vita alla quale Lui ci ha destinati. Se tu sei pieno di Dio, sei pieno dei Suoi comandamenti, se tu sei pieno dello Spirito Santo, tu sei pieno della vita di Cristo e quindi tutto quello che desideri è quello che Cristo ha e vuoi vivere quella vita straordinaria alla quale Dio ti ha destinato. Lo facciamo, è una scelta. Di cosa ti vuoi riempire? Dimmi di cosa sei pieno e ti dirò chi sei. Dimmi di cosa sei pieno e ti dirò dove andrai. Dimmi quali sono le tue giornate, come sono riempite e ti dirò qual è il tuo destino. E questa sera l'invito di Dio è fammi entrare abbondantemente perché ho un piano per la tua vita meraviglioso. Vogliamo alzarci in piedi? Io credo che alla luce di questi versi noi possiamo fare una scelta e Dio vuole che noi facciamo una scelta. Dio non vuole lasciarti solo. Lo Spirito Santo è il consolatore, l'aiuto, l'avvocato, il sostenitore. Questi sono i termini che vengono attribuiti allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è qui non per accusarti, per additarti, per giudicarti. Lo Spirito Santo è qui per dirti fammi entrare, dammi spazio, voglio aiutarti, voglio sostenerti, voglio fortificarti, voglio permetterti di vivere quella vita che tu vuoi vivere perché hai incontrato Gesù e vuoi quel tipo di vita. Se hai fame, se hai sete, se hai questo desiderio, io sono convinto che Dio opererà nella tua vita. Anche per quei peccati che credi che siano impossibili da affrontare e vincere. Anche per quella mancanza di perdono, quella ira, quella rabbia, quel dolore, quell'amarezza, quel cruccio. Dio è qui per dirti, io voglio darti letteralmente la possibilità di essere come Cristo, a sua immagine. Potenziato e reso capace di vivere diversamente. Non sei costretto a dover vivere con quella vecchia natura. Non te la devi portare avanti, la puoi lasciare, ti puoi spogliare e ti puoi rivestire ed essere ripieno di Lui. Lo vuoi? In questo verso c'è una cosa molto bella che mi colpisce è che dopo aver detto siate ripieni dello Spirito Santo, aggiunge parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali. Poi aggiunge cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. E io credo che tutte queste cose sono una conseguenza della pienezza dello Spirito Santo nella nostra vita. Noi cominciamo a cantare quando siamo pieni di Spirito Santo, non come cantano coloro che sono ubriachi, ma gli apostoli li hanno giudicati dicendo: ma avete bevuto? E loro hanno risposto: no, siamo pieni dello Spirito Santo, è sceso, è dentro di noi. E quando noi leggiamo in questo verso siate riempiti dello Spirito Santo, sapete, non è un'azione statica, non è come riempire un bicchiere d'acqua che poi lo riempi e rimane pieno, ma è piuttosto come un letto di fiume che è arido, e questo è il tuo cuore. Senza lo Spirito Santo il tuo cuore può essere arido e va riempito, ma quel riempimento deve essere costante. Se chiudi il rubinetto si prosciuga di nuovo. E infatti letteralmente, se andate a studiare la parola siate riempiti dello Spirito Santo, significa, sarebbe meglio tradotta dicendo siate continuamente riempiti dello Spirito Santo, siate costantemente riempiti dello Spirito Santo. È un'azione che deve essere costante, non può avvenire solo questa sera, è qualcosa che dobbiamo rigenerare, ricercare durante tutto l'arco della settimana. Quindi io voglio pregare per coloro che questa sera vogliono cominciare, ma voglio pregare per la tua settimana affinché tutto questo possa continuare e tu possa essere continuamente abbondante, ripieno dello Spirito Santo per affrontare ogni nuovo giorno. Vuoi questo? Allora ti chiedo di alzare le tue braccia al cielo e voglio pregare per te. Chiudiamo tutti i nostri occhi, concentriamoci su Dio, vogliamo parlare a Lui, vogliamo pregare a Lui, vogliamo farlo aprendo il nostro cuore. E anche voglio invitare il gruppo Lode a guidarci in un tempo di adorazione. Padre, tu ci vedi qui in questa sala, tu vedi i nostri cuori che sono arresi a te. Questa sera la nostra preghiera è che tu possa venire a riempirci. Io prima di tutto sento di pregare per coloro che devono essere svuotati, Padre, per quei peccati e quei vizi ingombranti che hanno tolto vita e vigore in noi. Io prego il tuo perdono e il tuo lavaggio nel nome di Cristo Gesù. Ognuno di quei peccati tu l'hai appeso alla croce 2000 anni fa, e io prego che quei peccati siano perdonati e che tu possa santificare la tua Chiesa in questo momento. E poi prego che tu, Spirito Santo, possa scendere. Io prego che tu possa riempire, che tu possa farti strada nei cuori di quanti desiderano vivere quella vita straordinaria che tu hai da farci vivere. Noi crediamo nella tua parola, Padre. Noi crediamo in te, Spirito Santo. Noi crediamo che avendo fame di te, sete di te, chiedendo, bussando, cercando, ti troviamo. E lo vogliamo fare questa sera con tutto il cuore. Ti diciamo: vieni, Spirito Santo, vieni, scendi, riempici, abbonda in noi, liberaci, dacci la possibilità di vivere quella vita alla quale siamo destinati nel nome di Cristo Gesù. Forza, alza la tua voce, vogliamo cantare insieme. Vogliamo cantare, lodare, inneggiare a Lui di vero cuore e cercare la pienezza dello Spirito Santo in questo luogo. Fallo liberamente, non pensare a chi ti sta avanti, dietro, al lato. Dio ti ha parlato, tu lo sai. Prendi una posizione, comincia a combattere per te stesso. Sii riempito dello Spirito Santo in questo momento.